il segnale deve essere buono, sto usando il free ratio. La radio il segnale come buona? Beh, la radio, cioè segnate per quello, la radio lo sai. La radio è buona, sì. Il segnale, vabbè, quante no. No, non sale questo, ui, magari. Mi sembra che arrivi 9, sei arrivato 9 la volta che è collegato a quella bestia. Ah, va bene, dai. C'è qualche altro più lontano. C'è Cristian della Budi Budi. No, Cristian, mi senti? Cristian. Si sente. Niente, mi pronto. No, sì, l'avevo telefonato in corso, dimmi. Lo senti a Claudio? Molto chiaro, sempre 9.30 Radio 5. 9.30 Radio 5, inteso vai. La radio sta funzionando, no, sto usando il 757 con l'MC50. No, va bene qua. Io purtroppo questo Smith non è affidabile, quindi non va preso in considerazione. Va bene, continuare, già sono qua. Vediamo se Gianni ha finito di cicciarsi. No, sono ben occhi, mi sto fumando una sigaretta di tabacco, cosa in ciccia, ui, la sabelli. Natali, ui, Abruzzi. E anche, per poco mi tronco una gamba ieri. E come? Il cane mi ha dato uno strattone e mi ha fatto un dolore al ginocchio tremendo. E che cane è? Una lana, cos'è? Ma cosa un alano? Ma fa una puzza tremenda, avanno lo dobbiamo via mangiare. Ma sarà cuocomane pure un cane? Ehi, quel cane è cuocomane, cosa ti credi? È scatenato, l'ho fatto. Allora lo stavo portando fuori, mi tira questo strattone cata mia, ho messo la gamba male, deve essere mi ha fatto male al ginocchio. Ma guarda, roba da chiudi, no? Se non la più vicino non la più credo. Io a volte quando vedo questi cani che tirano, quelli ormai non sono stati educati da piccoli magari. Oppure quelli che camminano di fianco, di traverso, con le zampette storte, sempre in tira. No, questo qui con la fretta di scendere giù, perché lo stavo portando, se no non tira. No, io invece ho bevuto un po' di acqua vizia col miele. Quella acqua vizia è barricata. Al posto dello sciroppo, dai. Già fa bene anche questo. E che mi sono allumendi, mi stanno arrivando le volpatte. E quello c'ha di difetto. E sta attenta a non berne tanta, se no poi cominci a fare i giochini. La verità mi è scappata un po' la mano, ma per non rimetterla dentro, per non contaminare la bottiglia, ormai me l'ho bevuta, dai. Ehi, avrai detto, crepi l'avarizia. Ma si venga, avanti Gianni. Un altro CC in più è... come ti dici? L'inghizzente, come? Avanti, il contrario, mi sto sciogliendo. Adesso fra un po' comincia a ridere. No, sto già ridendo. Io ci metto con la felpa, esci. Ragazzi, 2 minuti di bianco per me, mi allontanate e lo torno subito. Bene, bene. Vediamo un po' se c'è... Cristian? Sì, c'è di tutto. La tua vita fa male a quest'ora. Se bisogna fare quella leggera, a 60 gradi. No, l'ho scaldata comunque, proprio tipo sciroppo caldo, bollente, col miele. Ho fatto aerosol anche. Poi anche 3 Ave Marie, devi dire. Non ci sono, tra un pochettino, dai. Ma io sento anche altra gente sotto, sento, Anche io l'ho sentito, sia a Cristian che lo sento basso, non capisco perché, quando prima lo sentivo bene, e a quell'altro amico che ha detto le 3 Ave Marie. Non lo so, sento uno bassottino anche, più basso di Cristian. Ma Cristian sei fisso, sei in casa, dico, o sei in barra mobile? Cristian, non c'è più Cristian. Ci sono una zona piena di buchi. Ma dico, sei in movimento? Sono Ah, ecco perché. E tu lo senti un'altra modulazione che parla? Sei un po' bassina? Sì, l'ho sentita poco fa sotto di voi, leggera con un po' di eco. E chi è? Boh, non si riesce a capire chi sia, perché non capito neanche se sia italiano, boh, se è roba nostra o se è roba di propagazione. Giovanni, non so da dove, però ho capito. Ah, non sarà quello di, aspetta, come si chiama? Giovanni da Platamona, forse? Forse è lui, Giovanni Platamona. Beh, qua non arriva da parte mia. Claudio, ci sei? Negativo. Avanti Natale, allora, dai, lui. Cosa ti fa male? Incasanato sono. Allora, così impari a bere l'acqua vite. Ma io l'ho sempre preferita, piuttosto che prendere medicine, da quando dici, sciroppi strani. Un po'. È che non voglio scendere giù a prendere il limone in giardino. Se no ci metto anche il limone tritato dentro. Limone, miele e acqua vite. Non è male, come soluzione. Ma tanto l'effetto è forse anche meglio nelle medicine. Guarda che c'era ancora il frigo io, quella portata da Rifiri, a più o meno 50-60 gradi. Beh, non lo so. Sicuramente quando la scaldi qualcosa perde un po', perché l'alcol magari evapora un po'. Però già, ma la sorte già schirrieggiami. Non so, ti picchia forte, fidati. Non mi ricordo neanche dove sia, forse me l'hanno regalata degli amici di Olmedo, la fanno loro, roba fatta in casa, perché fuori dice che stava piovendo, buh. So, per me una cinquantina di gradi, fidati. Non lo so, però c'è un bel sapore. Poi veniamo un'altra che addirittura è dolce, non so dove gli abbiano messo. Sicuramente è roba di zucchero, è barricata, però rimane dolce, che secondo me l'hanno rovinata. Comunque al palato sembra che piaccia, però io preferisco la roba naturale, dai. Se è dolce non va bene, questa è la frutta convinta, se è barricata è molto serio, è buonissima, se è dolce non serve. Quindi chissà, hanno fatto qualche esperimento, è un peccato perché, ripeto, tolto il dolce, il sapore è bello, è molto saporito, dai, però pazienza, dai, finiremo anche quella. Sì, goccio, Natale riprende. Natale ti ha rilanciato? Non l'ho sentito, no, è basso arriva qua, boh. Sono mezzo arrivato per il Natalino, l'ha scorso. Mettiti un foglio di carta, oh Cristian. Sono ascolto in mezzo a un olivetto. Imboscato, sì, da. Eia. Vediamo un po', Gianni, sei rientrato? Gianni, è rientrato, Claudio. Non è Claudio nemmeno. Vediamo un po' se ci sente. Attenzione, Platamona, Giovanni. No. Vabbè, da. Eccoci qua, stazionare sono a zero. Ok, Natale. Sì, dai, faccio quel rettino, non si può modulare in queste condizioni, dai. Ci sentiamo alle prossime. Però stazionare non ne hai, no? Adesso. Adesso guardo, ma. E accordatore ne hai? No, non ne ho accordatore. Se no ti sei arrangiato anche, insomma, quando fossero salite a due e le avete abbattute. Io lo so, c'avevo un MFG decametrico e me l'ho venduto. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma poi, insomma, quello che incrociati era. Eia. Guarda che belli che sono, no, non ho mai avuto, a volte me li guardo su internet, sono belli anche da vedere, l'ho visto usando loro, un vecchio ZG, non ZG, cos'è, TM1000. Ho capito, e quello che avevo io anche un cacciavite ti accordava che... Ehi, questo già, non so se sia giusto, vorrà anche questo ritarato, buh. Mi di TM1000 ne ha uno Gianni, se non se l'ha venduto, che l'avevo fatto uguale all'altro accordatore che avevo io, quello americano, quello della Victronic, e segnava quello che segnava uno, segnava l'altro, l'avevo fatto uguale a quello americano, e l'avevo dato a Gianni, l'avevo dato. Quello lì sì che segna giusto. Ma Gianni chi? A Gianni doppio rullo avevo dato. Ah, ho capito. No, poi io ne ho uno in macchina, quello per dire, il TM999 credo che sia, però va, ne so male, dai. Poi tanto vedo che si sposta pure di regolazione, o qualcuno lo tocca con i piedi perché ce l'ho sotto il sedile, ce l'ho. Però lo tengo in macchina per accordare, anche lì ogni tanto ci vuole. E cappa, no, non ne ho più, non c'ho più nulla. Anche quel Victrumic era la taglia incrociata, era un marrasone perché era grande, bello. A volte bisogna conservarle, prima o poi. Così è Cristian. Mimì, tu sei imboscato. Rieccomi. Ehi, avanti, avanti. Fatto tutto? Ehi, sì, sì, sì. Normale amministrazione casalinga, dai. Quindi mi sono dovuto allontanare un attimo. Adesso mi pare che, visto che la mia pizzeria da sfotto di fiducia a Becchio, mi sa che tra 10 minuti e un quarto d'ora vado a ordinarmi la pizza per stasera. Adesso sono qualche settimana che non ne mangio, quindi una giubbura uragana. Mi sa che mio figlio stasera vuole ordinare roba di paninotti di quelli africani. No, non so da prendere lui, tipo un bovo, Sì, o se no quelli, sono, guarda, scherzando e ridendo, siamo 2022, guarda, una panini tipo capriccio, cheeseburger, roba del genere, sono forse una decina d'anni che non li mangio. ogni tanto mi viene la baffetta, sai, quelle cose che mangiavi tempo fa, ogni tanto mi sale la colina in bocca, però poi puntualmente non ho puntualmente lascio perdere. Come mai? No, invece a me piacciono più i panini della pizza, no? Li preferisco o cavallo con patate, o hamburger con patate, maionese, salsa rosa, sì. Invece a mia moglie piace più il capriccio. E prima ti ricordi dove andavamo? Via Roma lì, fare quei panini, quei capricci, poi da Tettino dell'Inna che c'era giù in piazza, scendendo da piazza d'Italia. Lo conosco da quando è aperto Agostino, c'è solo roba di panini mangiato, no, guarda, se mi metto a contare i panini mi sono mangiato lì, non dico ogni sera, ma quasi, c'è a un piano, panina a due piani, cheeseburger sotto, capriccio sopra, e giù, mamma mia come sto. E la tre l'ha mangiato lei? Avanti Cristian. E la tre, quattro tre l'ha mangiato lei? E guarda, ho difficoltà a capire quello che dici, non lo so, sembra un po' distorta la radio. E lo so, prova il microfono. E a tre piani, a quattro piani l'ha mangiato lei? No, mi sono limitato alla villetta a due piani, dai. Oltre non sono andato. Adesso, a digerirlo mi voglio i due dì. Io l'ho mangiato a quattro piani, ma tranquillo che gli dieci vogliono, non due giorni, ce ne vogliono quattro. Ma c'è anche l'ascensore? No, c'è anche la carica industriale. E tu Natalino, cosa hai detto poco fa? Ehi, da Renato li mangiavo quei panini lì, ogni panino. Ehi, anche da Renato, vabbè, la gioventù nostra. Qualcuno anche adesso, dai. La tappa era Renato, adesso roba di niente che fila pura, neanche le poste c'era la fila così. Con Aldo mi ricordo. Stiamo parlando di preistoria. Ehi, vabbè. Tempi andati. Poi te li ricordi i fast food? C'era il Tilt. Il Tilt mi pare, o cosa cazzo, adesso non mi ricordo quello con i colori giallo-blu, salendo dopo i portici Crispo, praticamente sulla sinistra, e poi subito dopo è nato il Kenny, che era dall'altra parte, vicino attaccata a Malaviglia. Ce n'è uno, mi ricordo, che poteva entrare sia da Piazza Italia che dalla via che scende da via Roma, come si chiama? Via Manno. Il Kenny. Che, vabbè, colori rosso e nero, sì, che aveva l'ingresso da Piazza Italia e l'uscita via Manno. Sì, quello me lo ricordo, anche quello mi ricordo. Però molti da Tittino, caspita, Tittino ti va dei tibanini enormi poi. Sì, vabbè, noi un paio di volte siamo entrati a Piazza Italia, abbiamo pigliato un fascio di battate, se ne sono fuggiti da Crabatti. Ma no, venite a Kenny. Ehi, a positivo. Vabbè, non è che due volte siamo entrati così e poi basta, poi il riferimento era Tino, dai, andavamo lì, che era molto più alla mano, dai. E poi con lo sguardo sorridente qui sotto quei baffi strani faceva ridere. La compagna di allora era una saga, ma dai, fate di altro pari lì, c'è il suo cazzo, le risate mi sono occupato. E avanti Natali. Dai, stavo facendo un correttivo, no? Non è possibile modulare con questa antenna qua, dai. Ci sentiamo alle prossime, dai, salutoni a tutti. Natali. Oi. Qui che ti hanno chiamato? Ciao Natalino. Ciao Carlo. Eccomi Franco, mi senti bene adesso? Già lo credo, Giallo. Ciao Carlo. Chi c'è? Natalino stava chiudendo. Gianni c'è ancora. Sì, c'è Gianni e c'è anche Cristian che è in barra mobile. Avanti Cristian, se mi ascolti. C'era Cristian. Allora magari è sceso. Avanti Gianni. Ancora, vai tranquillo, sono dal traffico. Ehi, ti ha rilanciato Cristian, ti ha rilanciato Carlo. Ciao Carlo, se mi senti. Sì, Santiago 9 da me qua. Ah, già va bene, dai, sono soddisfatto, dai. Bene, va bene, radio buona. Ma adesso l'ascolto meglio anch'io, eh. Avanti Gianni per Carlo. Eia. Sì, buonasera Carlo. Avete una bombetta qua, dai. Il mio Smith era la scala corta, comunque arriva un bel segnalone a queste coordinate, quindi tutto molto bene. Cristian, lo so, è in barra mobile, sta muovendo, ogni tanto lo perdo anch'io, dai. Io faccio un altro paio di passaggi e poi devo andare a prendermi questa pizza, che c'ho la baffetta incontenibile, dai. Mi fai bene, mi sa che anche io più tardi esco a prendere le pizze. E mi sa che oggi siamo tutti di pizza, Cioè, tra panini e pizza, insomma, roba da sotto, dai Carlo. Sì, perché in questo periodo abbiamo cucinato un sacco di cose, quindi non se ne può più della cucina, allora qualcosa di veloce già fa comodo ogni tanto. Anche tu hai festeggiato la grande? A casa, eravamo sempre a casa praticamente. Dove vuoi andare con questa pandemia? No? Non fa andare da nessuna parte, ci sono i contagi che stanno salendo alle stelle. E che lo dici? No, io ho fatto solo il Natale, il pranzo di Natale, poi il resto tutto in casa. Io Natale a casa e anche Capodanno, perché non va bene perché saremmo andati fuori da qualche parte, io avevo libero l'1 e il 2, ma con questa situazione la cosa migliore è stare a casa. Il 31, per non sbagliare, mi sono fatto pure la terza dose. Sì, hai fatto bene, anche mia sorella l'ha già fatta, adesso vediamo, dai. Come si evolve la situazione. Natalino, tu l'hai fatta la terza? Sì, mi sai, sì, Natalino l'ha fatta. Che l'ha fatta, me l'ha detto lui l'altro giorno, già l'ha fatta, sì. Sì, mi ricordo era un po' sussato, dai. Sì, no, prima l'ho sentito che dice l'ha tirato il cane e gli ha, insomma, fatto male al ginocchio. Ma l'ha mandato un po' in torsione. Mi avrà fatto qualche scricchiolio. Vediamo un po', Cristian. Io la terza devo provarmi ancora per la terza. Speriamo che non mi ammazzi, ma si spera. Beh, dipende, qualcuno ha avuto reazione, qualcuno no, dipende, dai. Bene, poi cosa ti fanno? Se ti fanno il Moderna è leggermente più tosto, mi hanno detto. Boh. Io ho fatto 82 Moderna, sono Moderna lo stesso. E anche io ho fatto due, anzi no, forse il primo secondo me era, come si chiama, un Pfizer. E poi il secondo mi hanno detto che lei ha fatto il primo, Moderna deve fare di nuovo Moderna. E guarda che io ho fatto Pfizer, oh, sul foglio c'era scritto Moderna e quindi mi hanno fatto Moderna, quindi qualche casino l'hanno combinato, dai. Sì, come al solito i casini li combinano, ma ci vuole pazienza nella vita e basta. Mi hanno detto non si preoccupi che intanto sono sovrapponibili, però il secondo, il Moderna l'ho sentito, sarà perché me l'hanno incrociato, non lo so, però qualche giorno ero un po' abbattuto, dai. Sì, io ho fatto invece tutte le tre dosi con Pfizer e non mi ha causato mai niente, tranne un paio di giorni il braccio indolenzito e basta, ma ormai non mi fa neanche più male. Beh, quello sì, quello, secondo, il lago quando entra sicuramente un qualche trauma lo lascia un po', qualche capillare lo spezza. Ma quello è il mio, no, a me mi è nato proprio un po' di febbre, lo sbaglio è che sono andato a lavorare ugualmente, sarei potuto starmene a casa tranquillo. Infatti, quando ti dà febbre così meglio stare a casa, comunque ormai l'hai superata quella fase. E invece il giorno che sono andato io c'era un signore che era voce, che lui voleva fare quello, come si chiama, quello americano praticamente, non il Pfizer, le Moderna mi sa, e praticamente non ce n'era, stavano facendo solo Pfizer. Guarda, un amico addirittura è andato via, e dice non è che non, ne avevano pochi, detto, ne abbiamo pochi, non possiamo farglielo, oh, l'hanno fatto andare via. Io dico una cosa, tanto i vaccini si possono anche mischiare uno con l'altro perché più o meno sono simili come reazione, quindi che vai, fai la terza dose, buonanotte, quello che ti esce, a me per combinazione, mia moglie invece aveva fatto AstraZeneca le prime due e poi adesso gli hanno fatto Pfizer. Tranquilli tutti e tre. Sì, anche lì il braccio indolenzito e basta, qualche brivido di freddo forse è accusato, ma solo quello. E qualche lineetta di febbre, dai, adatto. Poi ripeto, io l'unico sbaglio che ho fatto è andare al lavoro, è un po' mi ha sussato, dai, appena mi sentivo un po' tipo investito da un carro armato, indolenzito un po', però niente di che, l'indomani ero già un grillo. Posso immaginare come ti sentivi allora? Ma mi ha fatto la seconda dose di Moderna, è vero, ho avuto il colpo di un Grasso 9-3 e poi nel cofano. Abbassa un po' la modulazione, la radio, la puoi abbassare, che rimbomba troppo, oppure ti allontani un po' dal microfono. È tutta bassa, guarda io ho fatto la seconda dose e mi sono subito entrati dentro la sub 9-3 in piena estate e appena un colpo di macchina. E perché? Perché si era bloccata la serratura ed era nulla, se ci vuoi, con la berlina oltretutto. Ah, capito. Una volta era successo a me, aspetta come l'avevo aperta, vabbè, io avevo, addirittura avevo il bombolone del gas, la mia era una come si chiama, una tre volumi. Con una prolunga avevo messo una chiavetta, una 10 mi sembra, e ero riuscito ad aprire il cofano tra la bomba, diciamo, e il pianale della macchina. Io sono entrato dentro, un cacciavite a taglio, l'ho aperto subito, grazie a Dio. Ma io c'avevo la bombola, c'era il bombolone, il gas, una bombola da enorme, da 90 litri era. Allora, all'epoca avevo un Passat berlina, una Passat berlina, aveva un cofano enorme dietro. E si era sganciata, la serratura era pneumatica, d'aria era. Si era sganciato proprio il ferretto. Non era accessibile, quindi con un bastone e una chiavetta da 10 ero riuscito a aprirlo da dietro, con una pila, che era andata bene, dai. Ma guarda, io mi si è cagionato l'apertura, l'interna, l'ho eliminata del tutto adesso. E come apri? Con la chiave bassa. No, io quella l'avevo sistemata, è una cavolata, praticamente si era aspettato un supporto in plastica dove agganciava proprio il tirante in metallo, in fil di ferro, dai. E qui si era sganciato, l'avevo legato una bella meglio con un po' di col fil di ferro, quello sottile, una bella fasciatura, e ha ripreso a funzionare finché poi non l'ho rottamata quella macchina lì, a voglia. Avanti Carlo. Giusto, sto arrivando, prima era Osilo, stavo ritirando la macchina di mia moglie, 600 euro il botto. Aspetta, vediamo un po' se Gianni è andato via. Gianni, sei già andato in pizzeria? Stavo aspettando ad entrare, dai. Sì ragazzi, dai, io vi saluto, vado, la bavetta è incontenibile, dai, quindi spengo la radio, faccio QRT e vado a pigliarmi una pizza, ok? Grazie, la chiacchierata, saluto Riccardo, Cristian e tutti gli ascoltatori del 10, dai, vado a prendermi la pizza e ci sentiamo, a Sibiri, ciao ragazzi, alla prossima. Ehi capa, ciao Gianni, quasi mi è venuto il dubbio, ma non mi ricordo se Gianni ha chiuso, se sei ancora in... l'Alzheimer mi sta beccando anche a me. Dai, buona pizza, buon tutto, buona carica, salutoni in casa. Avanti Carlo. Ciao Gianni, buona serata e buona ricarica, alle prossime, vai Fra. Ci sono anch'io, buonasera. Oi, Mille Re di Porto Torres, buonasera. Buonasera a tutti, allora, che si dice? Ma Gianni un profeta era, in macchina? No, in macchina, a casa, però sta andando a smorfire, a mangiare. Ma non è successo, lo arrivavo a basso e lo sentivo anche male. No, qua, vabbè, stavo usando un altro apparecchio, non lo so. Stavo uscendo con 4 watt, mi ha detto, 4 e mezzo. Può essere quello, non lo so. C'è anche Cristian. Ciao Padre Torres. Ciao Cristian, buonasera, ben sentito. Adesso io riesco a tirarti fuori, dai. Io adesso non vedo la pedanietta adesso. Tutto aperto, fortunatamente. La pedanietta? Non ho capito. Sono zona pedanietta. Mi stai fischiando? Capito, sì. Ma in macchina? Vabbè, certo. Ma sto fischiando, sì. Poco fa stavi innescando, stavi fischiando. Non so perché. Ah, se la batteria del microfono mezzo scarica, dai. E così è amplificato? Ehia, con l'eco pure. Io lo passo magari così per risparmio in batteria. Tanto io ti ascolto bene lo stesso. Anzi, poco fa era troppo forte, addirittura rimbombava. Tutto è basso il microfono, proprio completamente è basso il microfono. Eppure no, qua arrivi bene, la verità è. La radio è forte, i picchi sono belli, positivi. Invece come radio, che radio stai usando? Una 78 plus, No, adesso si è uscito a fischi. A chi interessa un M più 4 mai usato? Nuovo ce l'ho qua, mai usato. Comprato, appoggiato lì e mai collegato, ma. Mia moglie ce l'aveva, l'MB, forse aveva il più 5, quello con gli strumentini. Però poi alla fine abbiamo ottenuto questo, che questo usciva meglio, questo americano, dai. Qua solo c'è l'antenna, un attimino. Via. Tua moglie. Mia moglie modulava. Non lo sapevo. Ma che tantissimi anni fa modulava sempre una signora. Aspetta, come si chiamava? Boh, io la Sassa la sentivo sempre. Cioè quando passava a Sassa era sempre sul 5. Non lo so, prima c'era un sacco di donne, caspita. Adesso mi sto uscendo. Prova. 2, 3, olla. Per me è bene. È la base magnetica che sta. La base magnetica sola che ha problemi. No, per me è bene. Carlo, tu ascolti bene? Sì, qua mi arriva a fondo scala, 9 più 5 con picchi positivi e già lo sento bene qua a Sassari. Ciao Carlo, buongiorno, anzi buonasera. Buonasera, mi senti bene tu? Sì, adesso sì, a Puglia. Dove sei, a Porto Torres? Sì, a Porto Torres. Aspettina, se sei in macchina ti sento a bomba qua, No, negativo, sono a casa, io a macchina non ne ho. Eccoli qua. Bene, sì, già vado. Anche Cristian lo sentivo bene quando era predanietta, però poi sì, in effetti col microfono stava fischiando ed era quasi incomprensibile, ma il segnale era ottimo. Posso? Prego. Guarda, Fra, che sto usando un altro tipo di microfono, come va adesso? Se la modulazione è buona. 757 con un microfono a tappa. E cosa vuoi, controllo? No, per vedere se la modulazione insomma è sempre la mia, diciamo simile, dai, non dico che quella del tappa, però così. Sempre la tua, sempre la tua. Io non me ne sarei accorto, sinceramente, mai sempre, cioè non mi sarei accorto che hai cambiato microfono apparato, sempre la tua. No, questo non è un cable, è uno Yaesh, stavo saldando il connettore, così usiamo anche questo intanto, se no rimane fermo, dai. Buonasera a tutti, ciao Carlo. Ciao, ma quante ne hai? Ogni giorno ne stai provando una, questa già va bene, sì che è perfetta, anche la voce è già la tua, Cos'ha? Io ho 4K, 4K, non viaggio, basta pure, il resto sono i Galaxy e le altre VU. Già è bene farle girare un po' tutte, così non si rovinano stando ferme. E infatti facciamo girare, va bene, K. Dai, riprendi Franco, fai girare. No, tranquillo, esce bene, bella grossa la voce, amico, come tipo quella del K. Tre biende. Invece Porto Torres, oggi, guarda se il segnale è cambiato, che oggi ho rimesso l'altra antenna, se ha diminuito un po' o se è uguale. No, aumentato. Poi aumentato, c'è quasi a 7. Ieri facevi schifo mi segnale. No, non liscio, no. Agganciato sempre. Liscio, diciamo che arrivavo a 2. Bianco per me, bianco, che una bassa. Ok, bianco per Cristian. Dimmi, oggi. Dico, si è agganciato adesso. Sì, se sgancio scendo ai minimi termini. Aspetta, qui che provo. 1, 2, 3, prova. Poi, dai, aggancia. Quanto è sceso? Sì, a 2. E quindi uguale alla stessa antenna. Anche ieri mi hai dato 2 con l'altra antenna di minimo. L'antenna hai messo, Franco? Ti ascolto lo stesso alla grande. Aspetta, forse avete parlato in 2. No, ieri stavo provando un'altra antenna, tipo canale a pesca, dai. Però senza adattatore di impedenza e senza condensatore su, proprio liscia, lineare, tipo un dipolo verticale stampato, diciamo, spalmato sopra una canna da pesca. Però non 5 ottavi, ma una mezz'onda era, più corta, dai. Però mi troveremo bene, praticamente nessuna differenza da questa. Sì, no, nessuna differenza, va. Segnale uguale. E conta che quella che ho provato ieri è anche più bassa, questa la canna è 8 metri più un pezzo di legno che c'ho da un metro circa, la scarsa, invece quella canna è da 7 metri senza prolunga di legno, un piccolo adattatore in vetroresina è bassa, quindi era anche più bassa. Ah, ho capito, come stazionarie? No, non ne avevo, no, uno, le due, qualcosa. Però ripeto, serve perché è attaccato al muro, Poi gliele correggo con l'accordatore, gliele porto uno e uno. Anzi, a uno, dai. Non ho capito. Allora lascia agganciato che arrivi più forte un segnale. Ecco qua, l'ho riaccordato. Ebbene, ma anche la radio cambia. Beh, portandoti avanti il segnale più forte, anche la radio è più forte. Ci guadagna, sì. Bene. Avanti, Carlo. Eugenio, com'è il mare oggi lì, da quelle parti? Guarda, non ho messo il naso fuori di casa oggi, quindi non ti so dire niente perché sono in malattia, capito? Dentro sabato lavoro. Ho capito, sì, perché pare che cambia il tempo adesso e dovrebbe fare un po' di freddo e venti da nord, insomma. E se lavori là all'aperto non è tanto bello. Lo so, solo i miei colleghi stanno aspettando ancora la nave, doveva entrare stamattina alle 8. Caspita, è così in ritardo, ma le bocche di Bonifacio vuol dire che c'è mare grosso. Ero cargo Napoli, no, è scesa dritta, capito? La Genova è scesa dritta. Ho capito. Accidentino. Bene, ti sto arrivando io lì a Porto Torres. il segnale. Sì, sì, sotto, pieno. La radio è bella limpida. Vabbè, già sto uscendo anche liscio, dai, senza niente, quindi va benissimo. La Sant'Enna è una bomba. Io lì a Sen, come sta arrivando? Non mi arrivi, Santiago 8 più 5. Quindi abbiamo praticamente lo stesso segnale, dai. Sì, sì, se non hai niente va bene, la radio è radio 5. No, no, niente, niente, assolutamente niente. Sto uscendo con... aspetta, 15 watt. Va bene, lascia così che va bene. Se arrivi da queste parti, io lo stesso, qua in tutto circondario, Alghero, arrivo Santiago 9 da casa, qualche altra zona già ci arrivo con un buon segnale lo stesso. Sì, sto usando il vasto dell'apparato, non sto usando nessun lineare, lì qua è fisso, me l'aveva regolato Claudio. È fisso così da quando l'ho comprato, non ho più toccato niente. Non sono uno che prende, tocca, fa, no, l'ho messo lì e niente. Come l'ha regalato, me l'ha fatto regolare Claudio, è rimasto. E prendi fa. Allora, quando una cosa va bene, tu stai lì a toccare, a modificare, a aumentare, a abbassare, lui lasciala così. Tanto fai danno e basta, rovini i cursori e poi magari gracchiano, fanno l'attrito di quelle scariche, quando strisciano i contatti. Beh, c'è una ferma, bella, stabile, una scaldatina ogni tanto e via, avanti Carlo. Comunque no, Carlo esci bene, c'è una posizione invidiabile, sicuramente le vostre antenne magari si vedono pure, linea d'aria tra il tuo tetto e Porto Torres, sicuramente vi vedete, dai. Sì, più o meno io dove ho l'antenna sopra il tetto vedo spazio e vedo un po' tutto, la zona di Alghero, vedo la Sinara, Porto Torres, e dall'altra parte mi giro, vedo Osilo, vedo Ossi, Tissi, quella zona là, e insomma già sono in alto e poi e soprattutto è molto aperto qua, capito? Quindi non ho ostacoli che mi limitano, tutto lì. Mi sa che metto una prolunga, la mia antenna la piazzo sopra il tuo tetto, se non ti dà fastidio. Un altro spazio c'è, si può mettere un altro tubo dall'altra parte. Oppure come trasmetto le radio oggi, col ripetitore e l'antenna montata in un punto alto, dai. C'è un problema per le antenne. Prima avevamo l'obbligo di farsela più a te perché pagavi la concessione. Adesso hanno levato la concessione, è un problema. Non ho capito, prima? Allora, prima pagavi la concessione. Potevi venire tranquillamente e puntarti dicendo no, io pago la concessione, io l'antenna la piazzo. Adesso hanno levato la concessione, quindi è un problema piazzare queste antenne CB, se il condominio ti fa problemi. Non lo so, ho sentito una bussata. Non lo so quello, se la legge poi è rimasta sempre, cioè il fatto che tu l'antenna la possa sempre piazzare, boh, per legge. No, quello non lo so, ma penso di sì, dai. È sempre un hobby, l'importante è non creare problemi, disturbi altrui. Vediamo se qualcuno vuole entrare, avanti il bip. Buonasera a tutti, già vedo più rumore. E questo bip strano che c'hai, buonasera. Cosa? Questo bip strano che hai. Questo qui è un altro bip di un altro apparecchio. Strano, come strano, com'è? Cos'è? Mobi, come cos'è questo? Già. No. Come si chiama questo apparecchio? Questo qui è il Cobra. No, pensavo fosse diverso il Cobra. Non è il classico bip tipo il nostro, quello che abbiamo noi da Galaxy. Dilli già, si chiama Donatello Rettore quella radio. Già. Eia. Che si chiama Donatello Rettore. Donatello Rettore. Ehi, quella radio si chiama Donatello Rettore. Chi gliel'ha messo questo nome? Io gliel'ho messo. C'è il Cobra, che lo canta il Cobra. Ha ragione, il Cobra non è un serpente. Adesso ci sono arrivato. Anch'io, un po'. Stavo pensando alle canzoni, ma non mi veniva niente. Ecco, sei di lì. Pensiero recente. Un mostro è... Io penso che non ce ne siano radio come quella, ma compatta, io l'ho usata. andato in 10 metri con la direttiva ai 10 metri. Sono fatto i complimenti con il microfono normale a 28.500, me lo ricordo sempre. Cazzo di genialoni, 160 watt da 140 modulati, mi manda laterale, perché c'è a lineare sotto la pancia, capito? Praticamente è una radio che va da 20 watt sino a 100 watt. Come anche il Galaxy c'è, che sotto c'ha sotto la pancia lineare col dissipatore. Sì, ha molta potenza in banda laterale, non tanto magari in AM mi sembra che siamo a cinquantina di watt se non sbaglio. Ma bella radio quella, bella esteticamente e bella come funziona, lo dico perché usata e ti dico che è veramente molto molto bella. Quella, quando è uscita quella radio costava 800 euro. Non so, le ho viste a 400-500 euro, comprate in America però Sì, già ne butto culo, l'ha trovata qua in Sardegna, però già l'ha pagata anche lui. Già l'ha pagata. Riprendi già e fai girare, dai. Ma sei qua? Dimmi. Il jack, che jack ci vuole? Grande o piccolo per la colonia del Kenwood? No, piccolo, dietro, piccolo. Quello grande è per le cuffie davanti. Ma no, vabbè, no, volevo sapere se ci vuole, va grande o piccola, ho capito. Piccolo, no. Claudio, se fosse che con gli stessi soldi si comprava il Midland Alan 48 modificato, non basta la pena. Veramente già, vuoi dire che è una lampada? Ma quella, quei soldi ce li vale già, una bellissima radio, una grandissima radio, non tanti mai a capo a darla, perché veramente guarda, io l'ho provata in SSB, ma non in 27, che non ha nessun significato usare l'SSB 27. Usata 10 metri, cazzo, una bomba, una bomba. Mi sa che ci vuole un bel alimentatore, 30-40 ampere, mi sa che assorba in banda laterale, buh. Avanti Carlo. Buonasera Gianni. Ciao Carlo, ben sentito, buonasera a te. Oggi già mi sentite meglio che sono a casa e non in macchina. Ti sento proprio come una telefonata, sembra che sei sotto proprio al telefono. E come diceva la pubblicità una volta, il telefono, la tua voce. Ehi, allora è veramente reale come voce, si sente che io non ti conosco in verticale, però la sento reale come voce. Meglio così, sì, già sta andando bene, infatti adesso lascio tutto così e va benissimo. C'è già disparato quindi dell'antenna? Lo credo, Giallo. Hai visto? E come ti dico io le cose già funzionano. Io non è che io sono un amante della Mantova, ce l'ho 30 anni la Mantova, e l'ho cambiata 4 volte, sempre stessa antenna. Però quando mi ha mandato questa sono rimasto veramente allibito, più che altro, perché c'è una differenza di ricezione allucinante. Vedi, tu dicevi come la Mantova non ce n'è. Oh già, non posso dire che la Mantova io ce l'ho, non la tolgo, ho deciso di lasciarla perché uso una radio con senza commutatore dirette, il 430 con questa, con la J-Pol e il 140 lo uso con la Mantova, capito? Perché un 430 l'altro l'ho versato e sta arrivando un'altra radio ATF che mi interessa di più. Posso dire che la differenza è la notti già, la notti, perché è così, la notti, una è 5 ottavi, una è 7 ottavi, notte la differenza, ma niente da dire, la Mantova è una gran signora antenna. Ma poi anche questa che c'ho io va molto bene, a portatore se fa arrivare 9.30 bucci d'ora, vieni voi. Sì già, arrivi fortissimo a portatore, ce l'hai davanti, quelle sono le zone tue, cosa è normale, portatore, le sorso, la costa del mare, quella è zona tua, no, te la tocca nessuno, è chiaro che quando pompi arrivi a livello locale e qua c'è un ottimo segnale lo stesso, sei 9.20, quindi va bene, quando attacchi sei 9.30, perciò hai un ottimo segnale, ti difendi abbastanza bene, ognuno ha le sue zone, ecco la ventolina, ti stavo aspettando, molto bene, avanti Eugenio, riprendi. Mi sono piazzato la colonnina esterna nel K, stavo ascoltando le modulazioni diverse. Da quante onde l'hai messa? Fayette, paiette piccole, gli avevo negli altri CB, non te li stavo provando, la sto provando. Ah beh, se dopo non c'è problema, non c'è problema. Sì, era un Tom. Io la già va bene, non ti preoccupare. Vai Franco. E anch'io ne sto usando una piccolina, da macchina. Non si legge, ormai non si legge più la targhetta, però aspetta, mi aiuta parecchio perché sento meglio in diretta. Un attimo di bianco. Ehi, positivo. C'è solamente bello il mio apparato. Oh, mamma. Sono il mio. Oh, mamma. Il mio è piccolino, ma già va bene. E mi accontento per adesso. Ascolta, Carles, se vuoi fare qualche acquisto, un amico che sta dando un po' di roba bellissima, se ti serve per dire un bel gas Saturnetto 220 base, nuovo, non lo so bene. Va bene, perché io ho problemi di spazio, quindi devo saper bene le misure eccetera, però magari riesco a coinvolgere qualche amico e ti faccio sapere senz'altro. Ehi, tutta roba nuova, cambiato casa, quindi non ti ha fatto niente, tutta roba nuova, seria. Io a me non mi servono, se avessi avuto roba KF magari qualcosa li avrei presa, ma io l'ho detto stamattina dal telefono, c'è tutta roba CB, quindi a me non mi interessa. Io CB tengo solo lì sotto il Meco e qualche veicolare dentro l'armadio, il resto io modulo sempre con questo tipo di radio, non cambierò mai. Ho capito. Essendo cos'ha la 220 già in uscita quella dalla radio? Sì, sì, 220. C'era anche Gianni Doppio, c'ero io, lui. C'era Antonio Pomponi, il Galaxy. C'era Andrea Eugenio, l'ha venduto, ma c'è un bella radio. È una radio completa di tutto, canali quanti ne vuoi, bande laterali, ha una sensibilità, una ricezione da favola, frequenzimetro, canalizzato con frequenzimetro, doppi strumenti, veramente una bellissima radio. Capito, ma anche ventola di raffreddamento dietro oppure senza ventola? No, c'è bisogno di ventola, 220 c'è il trasformatore, no, già è bella dissipata, non c'era problema, vai tranquillo. Se hai voglia di mettere qualcosa di più concreto, fammelo sapere, te la faccio prendere, perché nuova, capito? E già ti faccio sapere, Fla. Facciamo come esce Pomponio, quella gli ho data io, il Galaxy, gli ho dato io. Sì, la mia, non l'hai vista come esce. E ti tratta di Poggiamba Baracchino, Poggiamba tutto, Barun K, fortissima come radio, fortissima, veramente, c'ha quasi 25 watt la mia, regolabili da 0 a 20, come quella di Gianni, come tutte, ma ha una selettività, una ricezione che è favolosa. Però il migliore è coso, il migliore è il Galaxy Turbo, troppo bello, che va da 0 a 5, cosa resa, cioè da 5 a 100, a 100 watt, quello è bellissimo. La mia è così, io ho il Galaxy Saturn, ecco Turbo. Qua è il Turbo? Sì. Io ho il Galaxy Saturn, ecco Turbo, l'altro l'avevo cambiato, l'ho sostituito, ho trovato l'occasione, mi ha chiamato quello delle antenne, mi ha detto ti interessa, mandamelo, non sto lì, nuovo, ma io il Power, se tu guardi dove c'è RF Power, che praticamente il frontale è simile, è uguale, io il Power lo tengo a un quarto esco con 20 watt di portante e 50 modulati. Se lo metto al massimo mi dà 120 watt modulati. Il Galaxy Turbo è bello. Vabbè, è un po' diverso dal Galaxy normale, il frontalino. Oggi non è che cambia molto, siamo lì. Il Galaxy Turbo me lo comprerei io. Oggi ho pagato. Minimo 150. 150? Allora, se ho pagato 200 invece normale, 3,50 l'ho pagato. Sì, costa così. Se è nuovo ne vale la pena. Nuovo di pacca, nuovo. Anzi, adesso un attimino devo fare una cosa, sto toccando il vatt, ma so perché volevo vedere questa radio quanti vatt sta erogando. Beh, riprendi Carlo, fai girare, già sono qua. È indubbiamente una bella radio, per carità. È che io attualmente ho problemi di spazio e come come base, quella è una bella base, ma troppo grande, e quindi dovrei rivedere un po' tutto, capito? Però ha fatto bene Claudio a dirmelo, che essendo ottime radio, quelle già vanno, già riusciamo a sistemarla. E ti ricordo una cosa, che quando se dovessi acquistare quella radio ti elimini anche il coso, ti elimini l'alimentatore, capito? Elimini l'alimentatore, hai solamente l'apparato senza alimentatore, perché lo attacchi di 30 era 220. È un bel apparato veramente il Galaxy Saturn Echo. Se non sbaglio c'è anche strumenti di controllo tipo il wattmetro e anche per diciamo le CVR, dai. Sì, ha incorporato il coso per le stazionarie, ha due strumenti, quello del segnale e quello della portante, diciamo, che ti segna quanti passi sta uscendo, insomma, è veramente una bella radio. Ho capito, sì, è interessante. Vabbè, ma se già ci vorrebbe una mensola per quella apposta, però devo vedere quanto è lunga. Quanto è lunga, te lo dico subito quanto è lunga, guarda che io la tenevo qua, te lo dico subito, e ci stava proprio giusta giusta, era perfetta questa cosa, è lunga 50, no neanche, 45, ed è profonda più o meno, ci fa 50, capito? Sì, poi già me le cerco anche su internet le misure. Sì, in effetti piazzando una roba del genere elimini l'alimentatore, lo strumentino, capito? Diciamo più comoda, è un pezzo unico per fare tutto. Quella come di Watt va da 0 a 50, mi sa. No, quella va da 0 a 10, il Galaxy Saturn Echo. Va da 0 a 10, poi c'è il Galaxy Saturn Echo Turbo che va da 5 a 100, che è quella che ha Claudio. Ho capito, sì, ma 10 già fanno bene, 10 saranno in AM, in FM, magari qualcosina in più, e c'ha le bande laterali pure, sì. Quanto ne vuoi? Tutto, ma che scelta, è veramente una bella radio. Completa di tutto, in più ti consente di eliminare alimentatore, questa cosa qua, capito? Perché ha tutto integrato, come mina sua, insomma, una bella radio. Ho capito, adesso ci faccio un pensierino, poi vediamo. Ha copiato Mario con un bel microfono a tavolo. Sì, ragazzi, c'è da anche una bella radio, poi anche forte. Caspita, chi è che vuole entrare? Avanti. Avanti. K. Sentivo gente sotto Eugenio, me non vogliono entrare. Come ci permettono? Oh, però io ho bisogno di regolare questa radio, Ma secondo voi se io metto per il Mickey Green, così, guarda. Sopporta essa? No, perfetta ancora. Sì, un bel alza, è perfetta, ma è un bel alza, sente che sta spingendo, non distorce di niente, ma è un bel alza. Allora che microfono hai? Dice se viene di dume. Quello che sto vendendo io. Sì, un MB più 5 è questo, un MB più 5 con un FT757 della Yaesu, che è simile a quello che c'è tu. Il mio è l'MB più 4. Io un MB più 4 che non ho mai usato, proprio mai usato, mai neanche uso, proprio zero, mai uso, mi ce l'ho qua, nuovo, mai grattato, c'è il filo rigido, ancora, lo sto bando, che non me ne posso nulla. Ascolta, Offra, e se io metto il tone, adesso ce l'ho a zero, se io tu me ne metto a uno così, se il tone ne metto così a uno, cosa le fa? Nulla, c'è sembra niente, è sempre bella la modulazione, bella grossa. Ascolta, se li metto a due, così, guarda, adesso i toni li ho messi a due, com'è? Va bene lo stesso o era meglio a zero i toni? Forse leggermente più toni alti stai mettendo così? No, sto chiudendo, sto facendo praticamente i medio-bassi. Sembrerebbero più medi, però ripeto, non ci sono cambiamenti sensibili. Si sente che ci sono più alti. E anch'io ho preso così, però. Anche così a tre, così messo a tre invece il tono. Va bene qua. Diciamo che leggermente prima era proprio bella corposa, così te la sfina un po'. Però va bene lo stesso, No, ma oggi, quando tu mi dici corposa, a me piace corposa, allora buone motore a lumentiera, così, beh, anda. Così pare un MC60. Bello. Immaginate che questo è il B+5, è connessione diretta alimentata dalla radio 8 volts, fatta da un grande professionista che si chiama Fabrizio. Ma esce così bene questo microfono con i K, con gli AESU, con gli ICOM, che è una cosa da favola. No, va bene, perché in genere tendono a diventare sempre sottili come modulazione, invece questa è bella corposa, ripeto, niente da dire. Dammelo, ti vuole MC60. Ma lo sai, Eugenio, perché? Ma perché c'ha la regolazione anche dal microfono, ce l'ha due il microfono. Se io il microfono dovessi, guarda, adesso da due lo porto a quattro, guarda, ora, ecco, guarda, l'ho fatto un passaggio da due a quattro. La senti la differenza? Spinge ancora di più e non distorce. Esatto, ma di brutto si sente. Oh, qua sono arrivati i panini. Ci sentiamo più tardi se coincide. Un abbraccio a tutti. Avanti Claudio. Ehi, va bene. Carlo, tu cosa ne pensi di questo microfono? Si sente benissimo, anche quando l'hai aumentato più di due, non fa una piega, è bella la voce chiara, non distorce niente, pulita proprio. Sono contento, un bel abbinamento, facci picchio. Microfono da dorire, OG, 50 euro il microfono lungo, 34, 59 euro. Vabbè, dai. Chi c'è rimasto? Gianni Doppio Rum, ci sì. Dove è andato Gianni? Non lo so, forse gli è arrivata, qualcosa a casa da mangiare, no? Sto sbagliando, quello era Franco. No, non lo so. Dai, facciamola fare un microfono. Questo è diretto, sa solo di diretto oggi. Non ha bisogno di batteria, connettore Kenwood, cablato Kenwood. È una dose impressionante. Spinge molto di più del 60 perché il 140 c'ha lo slider, quindi più di quello non va, capito? Però questo col 140 no, va bene ancora più del 60 perché c'ha la regolazione di amplificazione anche sul microfono, quindi puoi spingere ancora di più del radio. Sì, perché la MC60 l'amplificazione non ce l'ha. Vabbè, quando te ne stufi sai che ti puoi fare un amico. Io mangio il microfono, c'è anche l'MC50, io non ho un problema, ce ne ho un microfono, se ti serve no, ti creare problemi. Lo faccio provare, lo provi, se la modulazione è bella, che ti piace più di quella, te lo tieni, che problema c'è? Così non mangio problemi, non segui. Però quando sei a Sassari fa meno squillo, lo prendi e lo provi. Dai, quanto mi piace, mi fai diventare rosso quando mi tratti bene così. Ti ho detto male, mi tratti. E comunque ho fatto il tampone, eh? E non ho fatto il tampone? Ho fatto il tampone. Ah, è bello, c'è negativo? Negativo, solamente sintomi di influenza normali. Negativo al Covid. Meglio così. Va bene. Dai, almeno sei sicuro, capito? Perché a volte diciamo, no, è niente, ma è qui, non è là. Però purtroppo sta variante di merda che c'è, ci può danneggiare. È sempre meglio fare le cose fatte bene, capito? Avanti Carlo. Poi se hai quei sintomi lì oggi è meglio andarci con le pinze. Hai fatto bene a fare il tampone, dove te l'hanno fatto? In farmacia lì a Porto Torres? No, negativo, non mi fido in farmacia, sono andato dove fanno le analisi molecolari. Ok, allora quello è anche più più esatto, capito, quello è perfetto, e quindi se ti è arrivato già l'esito, sicuramente si tratta di sintomi influenzali normali, che ce ne sono tanti adesso di casi, con gli sbalzi di temperatura, l'umidità che c'era nei giorni scorsi, oggi si è un po' abbassata di nuovo la temperatura, quindi è ovvio che